Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Mai mollato e dico mai, mi è crollato il mondo addosso ma non ho mollato mai, fuori dal ghetto lo sai, non bastano le mie chance, ci metto forza, tempo, impegno ma senza opportunità. Mai mollato e dico mai tradito un amico, lasciarlo in mezzo ai guai, mai colpevolizzato, mai oppure accusato, tu non hai capito un cazzo, giudica da più rewind. Mai mollato e dico mai, mi è crollato il mondo addosso ma non ho mollato mai, fuori dal ghetto lo sai, non bastano le mie chance, ci metto forza, tempo, impegno ma senza opportunità. Capita spesso ultimamente scene quotidiane, più della libertà Piacenza, più del pane, si impossessa di me stesso e mescono parole strane, l'angoscia che mi fuote sono tutte puttane, su un foglio l'inchiostro interpreta la mia voce, ormai stanca di parlare al vento parla ad una croce, si dice che forse da lì qualcuno ascolta, atroce quel silenzio quando attendi una svolta, con la mente via lontano viaggiamo, andare nel mondo astratto, ad un tratto accorgersi che è stato tutto invano, tutti gli sforzi che hai fatto, è come un pazzo ad ad un tratto ti accorgi che non è bastato un cazzo, voglio più spazio, più tempo, io perdono ogni intralazzo di un pazzo, gli anni dell'apprendimento in mente ogni momento, non metto in alto, invento, io il testo non lo invento, non sparo merda al vento. Mai mollato e dico mai, mi è crollato il mondo addosso ma non ho mollato mai, fuori dal ghetto lo sai, non bastano le mie chance, ci metto forza, tempo, impegno ma senza opportunità. Mai mollato e dico mai tradito un amico, lasciarlo in mezzo ai guai, mai colpevolizzato, mai oppure accusato, tu non hai capito un cazzo, giudicata più rewind. La vita spesso ultimamente non puoi perdonare, le chiacchiere della gente bastano per allontanare una persona dal cuore, ma ciò che mi fa più incazzare, credono che io non so, non sanno che puoi collegare tanti atteggiamenti che tu pensi non si possa decifrare, dalla mia parte c'è davvero poco da fare, distruggo un pezzo di vita fra strada, amici, droga, le mie distanze dicevano fosse finita ma hanno perso le speranze. Io sono ancora in piedi, lavato, pulito, quando mi ha chiesto qualcosa io non ho puntato il dito, io prendo le mie colpe e non mi assolvo in segreto, ho fatto un buco alla fortuna e credo non verrà più indietro, dentro un pezzo di vetro scaldavo morte, miracoli, sudore, la fatica, soluzione agli ostacoli, ho sempre fatto le mie mosse solo in mezzo ai tentacoli e i consigli della gente li rifiuto come a Napoli. Mai mollato e dico mai, mi è crollato il mondo addosso ma non ho mollato mai, fuori dal ghetto lo sai, non bastano le mie chance, ci metto forza, tempo, impegno ma senza opportunità. Mai mollato e dico mai tradito un amico, lasciarlo in mezzo ai guai, mai colpevolizzato, mai oppure accusato, tu non hai capito un cazzo, giudicare più rewind. Vita spesso ultimamente non ci puoi fare niente, l'ignoranza della gente può segnarti per sempre, se poi perso la voglia di dimostrare e combattere la personalità per soddisfare il carattere, sono stanco di gridare, stanco di farti capire, quasi inizio a credere che sono io che non si esprimere, reprimere la rabbia non mi ha fatto molto bene, non amo il mare quindi odio le sirene, le catene che mi sono messo mi van troppo strette, le sere col bicchiere in mano e mille sigarette, la mette tagliare in due la disperazione, quando è tutto passato un tattoo fa da cantone, non solo per nascondersi, è molto di più la pietra sopra il passato, lo sa solo un Gesù e quanto l'ho pregato per darmi la forza, volevo pace fine schiavitù prima del fine corsa. Mai mollato e dico mai, mi è crollato il mondo addosso ma non ho mollato mai, fuori dal ghetto lo sai, non bastano le mie chance, ci metto forza, tempo, impegno ma senza opportunità. Mai mollato e dico mai tradito un amico, lasciarlo in mezzo ai guai, mai colpevolizzato, mai oppure accusato, tu non hai capito un cazzo, giudicata più rewind.